frequenze Sui Generis. Innamorati del femminismo. E un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Eccoci qua come ogni lunedì alle 14.30. Siamo ritornate con la consueta puntata di Frequenze Sui Generis. Ci siamo lasciati la scorsa settimana parlando della manifestazione di Roma e anche questa settimana torniamo a Roma per raccontarvi di un tema che ci sta molto a cuore. Sì, questo tema è quello della Casa Internazionale delle Donne di Roma, che a questo punto è a rischio sfratto. In realtà non è proprio uno sgombero quello che rischia, ma è qualcosa di molto simile. Insomma, la Giunta Raggi ha chiesto il pagamento di tutti gli arretrati per gli affitti. Infatti la Casa Internazionale delle Donne è effettivamente un'occupazione che consta in più di 800.000 euro e quindi chiaramente, visto che la Casa delle Donne non li potrà pagare, potrebbe concludersi in uno sfratto. Tra l'altro, in questa settimana, se avete seguito la pagina Facebook, insieme al podcast della scorsa puntata abbiamo condiviso anche un crowdfunding proposto da Il Manifesto, che il 30 novembre ha pubblicato un'edizione speciale appunto per raccogliere dei soldi proprio per la Casa Internazionale delle Donne, anche se in realtà ascolteremo più avanti un'intervista a Maria Brighi, che è portavoce della casa, che dice: noi questo debito comunque non lo vogliamo pagare, apprezziamo tutti i contributi ma non lo pagheremo. Ecco, e quello che stai dicendo, Anna, potrebbe suscitare qualche perplessità in qualche ascoltatore, in qualche ascoltatrice, perché insomma sono stati diversi gli articoli che hanno detto: non è giusto avere uno spazio occupato, è giusto che il comune chieda l'affitto così come lo chiede a tutti quanti. In realtà la situazione è un po' più complessa, un po' più complicata di così, e noi durante questa mezz'ora cercheremo di raccontarvela per filo e per segno. Però, come sempre, prima di iniziare, diciamo, ad addentrarci nel cuore della puntata, non possiamo non raccontarvi chi sarà l'artista che ci accompagnerà nel corso di questi 30 minuti. L'autrice che ci accompagnerà nella puntata di oggi è Mercedes Sosa, che è una cantantessa, come lei ama definirsi, una cantora popular di origini argentine, che inizia a cantare, diciamo, tra gli anni 60 e gli anni 70. Le sue canzoni sono fortemente connotate dal punto di vista politico e della lotta per la democrazia e per la libertà dei popoli, tant'è che appunto avrà una vicenda molto particolare, nel senso che lei è di origini argentine e nel 1979 verrà imprigionata in seguito a un suo concerto e sarà costretta poi a lasciare il paese a causa della dittatura, per poi tornare qualche anno dopo nel 1982, dove continuerà comunque le sue lotte. Le sue canzoni sono politicamente molto connotate, fortemente connotate, tant'è che diventerà un'icona e un simbolo di lotta per la lotta e per la libertà, non solamente per l'Argentina ma anche per tutto il Sud America, e canterà fino al 2009, che è l'anno, insomma, diciamo, in cui purtroppo scompare. E l'artista di oggi c'entra molto con la puntata e con il tema della puntata, che riguarda appunto la lotta, la resistenza anche per la riappropriazione di quelli che sono spazi culturali, non solamente mentali ma anche appunto fisici, nei quali le persone cercano di ricreare cultura e socialità contro delle amministrazioni che talvolta sono un pochino poco lungimiranti, ecco, per usare un eufemismo. Quindi andiamo subito con la prima canzone di Mercedes Sosa, Todo Cambia. Buon ascolto. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Ed eccoci ritornati in studio, giusto un momento per presentarvi il primo contributo che vogliamo farvi ascoltare, che è un contributo raccolto sempre in occasione della manifestazione del 25 novembre, un contributo che ci parla della Casa Internazionale delle Donne di Roma. Uno strano sottotratto, perché? Perché il Comune dice che non ha dato nessuno sottotratto, ma ormai è di opinione pubblica, perché l'assessora l'ha detto ieri a Radio 1. Praticamente o all'inizio di dicembre diamo i nostri 700.000 euro, forse no, ce ne dobbiamo andare. E loro hanno detto che non faranno eccezioni, quando noi sappiamo benissimo che ci sono dei posti in comodato d'uso, dei posti in cui un debito è stato spalmato per 30-40 anni. Noi paghiamo 10.000 euro d'affitto e è dal 2001 che teniamo questo posto che va dall'ala del 600 all'ala degli anni 50, è un ex reclusorio femminile per delitti contro la morale, e lo teniamo, insomma, chiunque può venire alla casa e vede che anche se ogni giorno sta un tubo o una cosa, e quindi noi siamo associazione, diamo i soldi nostri, per fortuna abbiamo le compagne femministe più grandi che ci permettono, perché noi dovremmo anche lavorare qualche volta. E poi ci stanno appunto dalle ginecologhe, alle avvocate, a tutti i servizi che facciamo per il territorio. Non ci è riconosciuto, cioè da questa giunta non ci è riconosciuto, proprio da una giunta che è completamente femminile. Quindi non ci sono state evoluzioni dalla notifica di questo debito da pagare? No, c'è stata un'evoluzione solo nel fatto che ci vogliono rincontrare all'inizio di dicembre. Per dirci cosa non lo so, anche noi vedremo che strategia avere. Quindi appunto proprio su questo punto non vuole mollare. Avete pensato a delle strategie per scongiurare il rischio sgombero? Non so che dirti, questo proprio non so che dirti, nel senso che se loro vogliono mandare in malora un palazzo monumentale come hanno fatto con il governo vecchio, che adesso ci vorranno miliardi per rimetterlo a posto, è ancora chiuso e ci hanno sgombrato 25 anni fa, mi sembra, se vogliono mandare in malora anche questo... Ma noi non ce ne andremo, venderemo cara la pelle. E avete avuto problemi di questo tipo già con le passate amministrazioni o no? No, c'era da discutere, c'era da fare una trattativa, sicuramente si doveva vedere, perché 10.000 euro al mese era troppo, insomma si stava, tanto il patrimonio durante Marino ci quantificò il nostro operato, i nostri servizi in quasi 700.000 euro l'anno. Però questa cosa non è andata avanti, si è bloccata lì, per cui per loro siamo morose e basta. E abbiamo sentito il primo contributo della puntata di oggi. Dopo esserci sentite, devo dire, tutta la canzone Todo Cambia di Mercedes Sosa, ma ci piaceva tutte tantissimo e quindi abbiamo deciso di dare un po' più spazio. Questo contributo lo ha raccolto Alina in manifestazione appunto il 25 novembre. Infatti la manifestazione del 25 è partita proprio dalla Casa delle Donne di Roma con l'hashtag che è stato rilanciato sui social, La Casa Siamo Tutte, e poi ovviamente anche importato in manifestazione con bandiere, magliette, palloncini, qualsiasi cosa. E a questo punto però andremo ad ascoltare un intervento un po' più mirato. Sì, esatto, infatti adesso vi faremo sentire da parte della portavoce della Casa delle Donne, Maria Brighi, il racconto di che cosa è stata e che cos'è tuttora la Casa Internazionale delle Donne di Roma. La Casa Internazionale delle Donne di Roma è un luogo, noi diciamo, unico al mondo, perché tanto è un luogo dove si fanno tantissimi eventi e quindi ci sono tantissime attività sociali e culturali, ma poi è anche un luogo all'interno del quale ci sono 30 associazioni, abitano dentro la casa, 30 associazioni che offrono dei servizi. Questi servizi vanno dalla, diciamo, dalla consulenza delle avvocate, delle nostre avvocate, alla consulenza ginecologica, a consulenza psicologica, abbiamo anche un posto dove le mamme possono lasciare i bambini, insomma, quindi una varietà grande di servizi. Poi la casa nasce con un'occupazione, diciamo che la casa nasce dalle lotte e quindi pensiamo che alle lotte torneremo per tenercela stretta. La casa nasce dopo l'occupazione, dopo aver lasciato il governo vecchio, con un'occupazione del Buon Pastore, l'edificio in cui siamo ora, che risale tipo all'87. Quindi da allora noi siamo là con vari eventi che hanno cambiato da molti punti di vista la configurazione della casa. Poi con l'aggiunta Veltroni la casa è stata il giubileo, la casa è stata ristrutturata e ci è stata affidata con una convenzione. Noi dovremmo pagare un affitto, ma noi non ce la facciamo perché la casa si sostiene soltanto con i finanziamenti, ovviamente con le donazioni, con i progetti e con tutto il lavoro volontario. Ti volevo chiedere a questo punto invece con la Giunta Raggi che cosa sta succedendo? Ecco, appunto, allora noi abbiamo, come dire, maturato un grosso debito, ma perché noi facciamo anche tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria, e per chi non c'è stato in questa bellissima casa è veramente un grosso onere che noi sosteniamo. La Giunta Raggi ha detto che a questo punto noi, avendo questo debito di 800.000 euro, 833, dobbiamo pagarle. Se non paghiamo subito, entro 30 giorni, che più o meno scatteranno l'8, saremo sotto sfratto. Abbiamo avuto un primo incontro con la Giunta Raggi, diciamo non con la Giunta, con l'assessore alla politica sociale e al patrimonio, e in questo incontro è stato molto interlocutorio, diciamo, e ci hanno dato un prossimo appuntamento ad un tavolo tecnico che ci sarà il 6 dicembre alle 15.30. In questo tavolo tecnico andremo a sentire cosa ci vogliono dire e ci vogliono proporre. Certo è che hanno già in un'intervista detto che noi dobbiamo assolutamente pagare, perché non dobbiamo essere, diciamo, un esempio, diciamo un primo caso in cui il debito non viene pagato, anche perché a Roma sono tantissime le situazioni simili alla nostra. Faremo a vedere, però come ripeto, noi siamo assolutamente pronte a qualsiasi cosa per tenere la nostra casa. E appunto anch'io leggevo delle interviste, di cui una in cui dicevano non è possibile che il lavoro della Casa delle Donne gravi sulle spalle dei cittadini. In realtà noi abbiamo sentito prima un contributo di un'altra ragazza della Casa delle Donne che diceva appunto che con la Giunta Marino il vostro lavoro, che comunque è un lavoro pubblico, certo, era stato stimato anche economicamente. No, certo, con la Giunta Marino noi stavamo, diciamo, firmando una convenzione che riconosceva il valore dei nostri servizi, e il valore dei nostri servizi ammonta a 700.000 euro l'anno. Questo vuol dire che noi con un anno ci siamo già ripagati tutto e che in qualche modo siamo noi che dobbiamo avere i soldi indietro, però questo lo dico così, ma anche perché io penso che il valore dei servizi che la Casa Internazionale delle Donne, ma così come tutte le case, così come tutti gli sportelli, come i centri antiviolenza autonomi eccetera, offrono, sono monetizzabili se vuoi fare la somma delle ore lavoro che uno svolge lì, ma non hanno un valore economico, hanno un valore enorme che viene dalla forza delle donne, dalle nostre esperienze femministe, dalle nostre pratiche femministe, e tutta questa cosa qui non è un valore calcolabile, e questo dovrebbe assumere la giunta, il valore politico, sociale e culturale che tutte le case, che tutti i nostri centri femministi offrono all'esterno. Mi chiedevo sempre sul tema, visto che la giunta Raggi a questo punto pare di capire vorrebbe smantellare la Casa Internazionale delle Donne, certo, e che voi offrite tutta una serie di servizi che appunto erano stati stimati anche monetarizzati in qualche modo dalla giunta precedente, la mia domanda è: la giunta Raggi sta proponendo delle manovre di qualche tipo per sostituirsi al vostro servizio, che in qualche modo non è legittimo secondo lei? Cioè, ci sarà un servizio sostitutivo? Ha già spiegato come sostituirà i vostri servizi? Assolutamente no, tutto questo non è stata proferita parola, ma qui i servizi a Roma vengono smantellati, non c'è sostituzione di niente. Cioè, il Teatro Valle che offriva, no? Cioè, è stato chiuso e ora è in un degrado, in un abbandono incredibile. Cioè, le cose vengono chiuse, smantellate e lasciate lì. Non c'è un'idea, di una visione di città, di cultura e di sociale. Violeta Parra era cilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con el las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. E rientriamo dagli studi di Radio Città Fujiko. Purtroppo non possiamo ascoltare per intero tutte le canzoni di Mercedes Sosa, anche se ci piacerebbe un po' una violenza sfumarle così. Però insomma, facciamo un breve commento un po' a quello che abbiamo sentito già nei contributi e nell'intervista precedente, per poi andare ad ascoltare quello che sarà l'ultimo contributo, anche quello raccolto da Lina proprio in occasione della manifestazione il 25 novembre. Ecco, io non so cosa avete pensato voi ascoltando l'intervista di Maria Brighe, però a me veniva in mente il fatto che comunque molto spesso non si considera proprio il fatto che certi servizi assistenziali, dovrebbero di per sé stare nel welfare, almeno in quello che io considero essere il welfare. Forse è una visione un po' di parte, però insomma nella mia idea di welfare ci sono tantissime cose che dovrebbero rientrare. Mia sorella per esempio fa la volontaria in Croce Verde e mi odia perché io le dico: tu fai un volontariato che comunque dovrebbe essere assistenza. Poi è chiaro, sono molto fiera di lei, della mia sorellina che ha 16 anni e fa la volontaria, però fondamentalmente non credo che a nessuno verrebbe mai in mente di dire alla Croce Verde: ora chiudi e non fai più andare le ambulanze perché ci devi dei soldi e non vogliamo passare l'idea che si può occupare uno stabile senza subire ritorsioni. E non capisco perché questa logica, che con le ambulanze è tanto chiara, cioè lo Stato riconosce alle pubbliche assistenze di fare un lavoro, non sia così chiara con la Casa Internazionale delle Donne. Perché comunque, tra l'altro, con tutto il dibattito che c'è stato di più forse negli ultimi anni proprio sul tema anche della violenza di genere, della necessità di curare tutta una serie di temi in Parlamento sfruttato tantissimo a livello politico, non capisco poi come nella prassi, o meglio non è che non lo capisca, ma vorrei che non fosse così, come nella prassi ci si possa allontanare così tanto da quello che è tutto il discorso politico. Ma anche perché quando si parla di centri antiviolenza si dà sempre per scontato il fatto che questi siano centri a cui le donne possono rivolgersi gratuitamente, cioè l'aiuto che loro ricevono, che sia un aiuto di una consulenza psicologica, di una consulenza con un'operatrice per decidere un piano strategico per uscire dalla violenza, ma anche l'eventualità di essere accolte in una casa rifugio, ovviamente sono tutti quanti dei servizi che vengono offerti in maniera assolutamente gratuita. E il lavoro di questi centri antiviolenza è proprio questo, quello appunto di fornire questa tipologia di servizi a chi ne ha bisogno. Figuriamoci se possono farsi pagare per offrire questo aiuto che danno, e quindi da dove li dovrebbero ricavare i loro introiti? E questa è sempre la grande domanda, e quindi sì, si rifà un po' al discorso che facevi tu, Anna, di welfare. Sì, e tra l'altro nel primo contributo che abbiamo ascoltato la donna intervistata diceva anche giustamente: anche per fortuna ci sono donne più anziane che partecipano, perché noi in teoria dovremmo anche lavorare. E questo è un altro grande tema, cioè il fatto che tutta questa assistenza viene fatta a livello gratuito. Ora, non credo che a nessuno sia mai venuto in mente di andare dal dentista e dirgli: è un mio diritto essere curato da te. Sì, in un certo senso lo è, però c'è tutta una serie di lavori che vengono svolti a titolo gratuito da persone, tra l'altro senza che gli venga neanche riconosciuto. Cioè addirittura poi può essere che la giunta gli dica: beh, però ve ne dovete andare, ci dovete dei soldi e noi non vogliamo legittimare questa cosa. Sì, e se posso aggiungere una cosa, io insomma circa un anno fa ho visitato la Casa Internazionale appunto delle Donne di Roma, e oltre a tutti i servizi che offrono hanno anche un cartellone rispetto agli eventi molto molto completo e pieno di cose che possono essere le più disparate, quindi concerti, reading, discussioni, incontri. Quindi oltre a tutti questi servizi che offre, esiste anche un modo di proporre e di fare un certo tipo di cultura, che anche questo penso che non debba assolutamente essere perso. No, anzi tutt'altro. E proprio per capire qual è il tipo di cultura che esce da questi luoghi, vi proponiamo il prossimo contributo. Sono Vecchietta, sono qui da quando ero giovane e sono una delle donne della Casa Internazionale delle Donne. Stavo già lì quando facevamo l'occupazione. Io mi sono occupata per prima, tra le altre cose, del tema della violenza sul lavoro, le molestie sessuali sul lavoro, quelle che oggi la vostra generazione riscopre, perché non è cambiato nulla, come non era cambiato nulla dal 1861, dall'Unità d'Italia, quando le maestre si suicidavano per non sottostare ai ricatti, come non è cambiato nulla dall'88, quando il redattore capo di Repubblica molestò la sua collaboratrice che lo denunciò, come non è cambiato nulla dall'undicesima, dodicesima, tredicesima legislatura, quando con il senatore Smuraglia approvammo a far approvare in Parlamento una legge contro le molestie sul lavoro. Abbiamo realizzato nell'89 la prima indagine in tutte le categorie trasversali sulle molestie sul lavoro, perché si diceva lo subiscono solo le hostess, solo le segretarie. Dimostrammo che lo subivano le dottoresse, le infermiere, le portantine negli ospedali, le ricercatrici del centro sperimentale delle ferrovie dello Stato, le dipendenti delle ferrovie, le lavoratrici dei negozi privati, le lavoratrici del Ministero della Pubblica Istruzione. Facciamo una grande indagine su Viale Trastevere. Non fu più possibile negare che era un fenomeno che interessava tutte le donne che lavoravano. Linda Laura Sabatini, negli anni successivi, organizzò la grande indagine dell'Istat che dava conferma dei nostri risultati di allora. Allora non fu un'indagine con i crismi istituzionali della ricerca scientifica. Furono 35 lavoratrici a tempo loro, coordinate dal nostro coordinamento donne, che era composto da donne iscritte al sindacato, femministe, CGL, CISL e UIL, e anche non iscritte, tutte quelle che volevano raccontare qual era l'esperienza nel lavoro. Oggi voi riscoprite, a distanza di una generazione, che non è cambiato molto, anche se forse le condizioni di lavoro, essendo peggiorate, significano molto più ricatti, ma c'è bisogno di parlare di una cosa: il ricatto per sua natura, cioè il pizzo che si chiede alle donne sul luogo di lavoro, ha bisogno di complici, e i complici sono gli uomini che nella stessa stanza, nello stesso ufficio, fanno finta di non vedere, non sentire, non capire, e quando qualcuno di loro ferisce una donna, corrono in soccorso del molestatore, non di chi ha subito le molestie. C'è una grande strada da fare, e soprattutto da ricordare che quando vinciamo qualcosa, non è mai per sempre. Le donne possono tornare indietro, perché hanno di fronte un solido patriarcato, che a differenza di quello che sostenne qualche anno fa la Libreria di Milano, essendo che il patriarcato era morto, noi abbiamo risposto da Roma: sì, ma un fratello gemello vivo e vegeto che lotta insieme a lui. Ecco, ad esempio, questo commento che abbiamo appena finito di ascoltare credo sia veramente significativo rispetto a che cosa è la Casa delle Donne di Roma, a che cosa sono gli spazi dove si crea cultura, in particolare in questo caso spazi di cultura femminista. Cioè, chiediamoci in che modo ci sarebbe potuto essere la spinta per fare un'indagine, ad esempio, come diceva, sulle molestie sul lavoro, e scoprire che le molestie sul lavoro non le subiscono soltanto le segretarie, che poi, diciamoci anche perché, dobbiamo dare per scontato che una segretaria debba subire una molestia sul lavoro, e facciamoci due domande su questo, ma appunto fare un lavoro così importante e portare allo scoperto una realtà che io spero abbia lasciato un po' esterrefatti tutti quanti, nonostante adesso si stia parlando tanto di molestie, e chiaramente, come spesso succede, se ne sta parlando anche tanto male, e sono proprio luoghi come questi che fanno capire la portata di problemi che diversamente, senza questo tipo di indagini, che poi appunto sono scaturite anche proprio in un'indagine dell'Istat, e non avrebbero dati a sostegno di queste tesi. Sì, e secondo me questo discorso si ricollega un pochino anche a quello che faceva Giulia prima, nel senso che alla fine gli spazi come la Casa Internazionale delle Donne, che in questo momento sono tutti sotto attacco a livello proprio politico, non solo a livello di femminismi e di questioni di genere, tra l'altro qui a questo punto divago un po', però tutta quella aggregazione, quell'idea di spazio sociale è sotto attacco anche a Bologna, per dire, noi siamo a Bologna, quindi è sotto attacco anche qui. E secondo me si perde ogni tanto di vista l'idea del fatto che una città sicura, bella, una consapevolezza sociale viene anche dal fatto che gli spazi di aggregazione, di condivisione dei saperi, non siano solo luoghi di consumo, non siano solo l'università per cui si paga una retta, non siano solo il bar in cui si paga una birra, cioè siano posti di incontro e di discussione che sanno mettere insieme persone diverse, ma lo sanno fare senza quel grande dio che abbiamo, che è la moneta. Bene, come abbiamo ascoltato anche dalle parole di Maria Brighi, avete sentito che appunto il 6 di dicembre la Casa Internazionale delle Donne di Roma incontrerà la giunta, e noi siamo molto curiose di sapere che cosa scaturirà da questo incontro, e certamente Radio Città Fujiko vi aggiornerà su quello che succederà. Sì, a questo punto direi che non ci resta che salutarci. Io vi ricordo che la prossima puntata sarà in collaborazione di nuovo con la Falla, presenteremo insieme il numero di dicembre. Sì, Sì, vi ricordiamo che potete comunque riascoltare il podcast della puntata sulla pagina Frequenze sui Generis, la pagina Facebook Frequenze sui Generis, dove potete anche eventualmente contattarci e commentare e proporci magari dei temi per le prossime puntate. Vi lasciamo con l'ultimo brano di Mercedes Sosa, La Mazza, che vuol dire il piccone. Felice lotta a tutti e buon proseguimento degli ascolti. Alla prossima puntata. Si no creyera en mi silencio, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escuche, si no creyera en lo que duele,